sembra sempre uguale, ma forse non lo è se cambia la tonalità. Come una canzone riempie il vuoto intorno a me. Mi vedrò presso nello specchio della mia vanità. La luce delle stelle illumina le lacrime. Non so cosa dire, sale la tensione. Thank you. piccolo uomo.